Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca dell'Associazione Culturale Energicamente. Ci occupiamo di benessere all-inclusive, offrendo un'ampia gamma di trattamenti olistici e spaziando a 360 gradi nel campo delle consulenze, dal counseling cognitivo-relazionale a consulenza energetico-vibrazionale in tema di fiori di Bach, fino ad arrivare all'importantissimo campo dell'alimentazione, segnatamente puntando la nostra attenzione sulla stretta correlazione sussistente fra buone abitudini alimentari e mantenimento del miglior stato psicofisico della persona. Come annunciato in precedenza, questa sera ci occuperemo di un legume particolarissimo, le lenticchie. Noi italiani siamo soliti portarlo sulle nostre tavole la sera di Capodanno, preparandolo, augurandoci buona fortuna, prosperità e soprattutto molto denaro per l'anno successivo. Si è soliti dire infatti che più ne mangiamo, maggiore sarà la quantità di denaro che entrerà nelle nostre casse oppure nelle nostre tasche l'anno successivo. Beh, in realtà questo legume, come dimostrato da svariati studi scientifici condotti sullo stesso, dovrebbe essere consumato molto più spesso, essendo molto ricco di proteine, ne contiene, pensate bene, il 25%, ma anche essendo un'ottima fonte di carboidrati, di potassio, di vitamine del gruppo B, oltre a calcio, ferro, zinco e fosforo. Questo piccolo legume ha nutrito per millenni il genere umano, a svariate latitudini del globo, fra l'altro, essendo stato l'alimento base, pensate, per i popoli nomadi sino dal Neolitico, dall'Egitto all'antica civiltà greca, romana, dalla Siria alla Turchia. Le lenticchie venivano consumate di frequente dalla popolazione umana. Ai giorni nostri la lenticchia resta un cibo estremamente economico e al contempo gustoso e fonte, come dicevamo prima, di proteine che non andrebbero consumate esclusivamente nella stagione invernale alla quale ci stiamo avvicinando. A differenza di altri, fra l'altro, in modo particolare della soia, conserva una buona biodiversità, non avendo subito modificazioni genetiche. L'Italia è un'ottima produttrice di lenticchie, fra queste ne ricordiamo due in particolare: una dal seme abbastanza grande, la lenticchia di Villalba, un piccolo paesino in provincia di Caltanissetta, e la più famosa, lenticchia di Castelluccio di Noce, marchio IGP. Anche l'India però regala molte varietà di lenticchie, e proprio traendo spunto dal subcontinente indiano, questa sera vorremmo offrirvi una ricetta molto particolare, ovvero sia quella del dal, un piatto molto sfizioso da preparare e da gustare in qualunque stagione, ma in modo particolare in questa che comincia a divenire un pochino più fredda. Quindi preparare un buon piatto caldo non può che aiutarci e rallegrare la nostra tavola, in modo particolare la sera a cena. Per prepararlo dovrete fornirvi dei seguenti ingredienti. Innanzitutto l'ingrediente principale, ovvero sia le lenticchie, ne basteranno 150 grammi, la varietà sceglietela a vostro piacimento. Dovete avere dell'acqua a disposizione, 5 o 6 pomodori tagliati oppure della passata di pomodoro, una zucchina media tagliata a dadini, dello zenzero finemente tritato, una cipolla rossa, aglio, comino, peperoncino in quantità da voi desiderata, 1 o 2 cucchiai di curcuma, del ghee o burro chiarificato, oppure dell'olio extravergine d'oliva, e infine un cucchiaino di semi di senape nera. Come procedere? Beh, innanzitutto dovete mettere in ammollo le lenticchie, se il tipo di varietà lo richiede. Scaldate poi una casseruola contenente il ghee, e quindi il burro chiarificato oppure l'olio extravergine d'oliva, ed aggiungetevi la curcuma, gli spicchi di aglio interi oppure tagliati a pezzettini, la cipolla finemente spezzettata, e procedete poi a soffriggere il tutto per circa un paio di minuti. Al soffritto così ottenuto aggiungete le lenticchie, i pomodori, la zucchina, includendo anche un po' di sale, non moltissimo, il peperoncino a vostro piacimento, lo zenzero finemente tritato, e lasciate cuocere così il composto, cioè ovvero sia il dal, fino a quando le lenticchie si saranno quasi integralmente amalgamate con il resto degli ingredienti, fino a formare una sorta di crema molto densa. In un tegamino a parte, nel frattempo, provvederete a versare il ghee, quindi il burro chiarificato, oppure l'olio extravergine d'oliva, e ad aggiungere il cumino e la senape nera. quando i semi inizieranno a scoppiettare, potete unire il tutto al dal mescolando bene. Potete servire questo ottimo piatto guarnendolo con foglie di coriandolo o di prezzemolo. A questo punto non mi resta che augurarvi buona preparazione, buon appetito, ringraziarvi per l'attenzione prestata ed invitarvi per maggiori chiarimenti su quanto fatto offerto dalla nostra associazione a visitare la nostra pagina Facebook Energicamente Competenze per il Benessere oppure il nostro sito www.energica-mente.it. A risentirci a presto su Radio Big World.